Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti con il mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio e Didaici sempre in regia. Manca ormai pochissimo al grande appuntamento del 10 maggio, di cui parliamo praticamente dall'inizio della stagione, da settembre. La Chiesa per la scuola, sabato 10 maggio in Piazza San Pietro a Roma. Papa Francesco in questi mesi, in queste settimane, sta incontrando tutti e c'è anche il mondo della scuola. Ovviamente un percorso, come spiega Roberto Presilla, professore incaricato di filosofia contemporanea a Roma, un percorso che è iniziato ormai un anno fa, era il 3-4 maggio 2013 quando si tenne il laboratorio nazionale intitolato La Chiesa per la Scuola, un'occasione per incontrare tutti coloro che sono interessati a questo mondo. L'impegno per la scuola comporta anzitutto la richiesta di un forte investimento nella scuola come risorsa per la vita civile e sociale, un investimento di carattere culturale e morale, ma anche di carattere materiale ed economico. Non è possibile però ridurre le questioni sulla scuola ad un confronto sui fondi. Lo scarso investimento di risorse finanziarie è una conseguenza di uno scarso investimento di risorse affettive e culturali. I governi italiani, bipartisan, si sono sentiti negli anni autorizzati a tagliare i fondi nel comparto istruzione e ricerca, dato che l'opinione pubblica è la prima a considerarli per diversi motivi improduttivi. Non che la scuola per molti non sia interessante, ma non è la prima cosa che viene in mente se si parla di migliorare le cose. Strade, ospedali, tasse, tante sono cose da mettere a posto. Anche il dibattito di questi giorni su questo è molto acceso. Di fronte a questo disinteresse distaccato per la scuola e per l'università, l'atteggiamento è di chiudersi a riccio, questa è la prima reazione, difendersi a oltranza tenendosi le poche risorse disponibili per questo o per quel settore. Il risultato è di far nascere delle guerre tra poveri: scuola contro l'università, scuola statale contro scuola paritaria, Stato contro enti locali e via dicendo. Contrapposizioni che sono loro stesse sintomo della difficoltà a mettere a fuoco la questione educativa in quanto tale e il ruolo della scuola in questo ambito. Per queste ragioni la Chiesa, la Conferenza Episcopale Italiana che hanno promosso questo incontro del prossimo 10 maggio, guarda a tutta la scuola, come ha scritto Monsignor Gianni Ambrosio, presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, Scuola e l'Università. La Chiesa è per la scuola, perché la Chiesa ha a cuore i ragazzi e i giovani, ha a cuore la famiglia e la società intera. È per la scuola, per tutta la scuola, perché la scuola fa parte, una parte decisamente essenziale del bene comune. La scuola è un bene primario che concorre a costituire quel capitale umano, risorsa fondamentale per il futuro dei giovani e per il futuro della società intera. La Chiesa è per la scuola perché la missione educativa è questione fondamentale che riguarda tutti: la società, la famiglia, lo Stato e la Chiesa. L'interesse dunque non è solo per una congiuntura, per una situazione temporanea o temporale, nasce da una sollecitudine a occuparsi dell'uomo e del bene comune. In questo decennio 2010-2020 la Chiesa ha scelto l'educazione come cuore dei propri orientamenti pastorali. Il titolo del documento è Educare alla vita buona del Vangelo, una scelta che prosegue il cammino iniziato più di 40 anni fa, incentrato sull'evangelizzazione. Due gli elementi che riguardano questa prospettiva. Il primo riguarda la svolta del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, che ha segnato una svolta di stile, un cambio di paradigma, una svolta che si accompagna a una lettura dell'epoca contemporanea in cui si può costruire un'antitesi netta tra la paura, segno biblico del peccato, e la speranza, che invece è una virtù teologale. E il Concilio Vaticano II ci fa venire in mente l'ormai prossimo santo Giovanni XXIII, che il concilio volle aprire nel 1958. Poi Giovanni Paolo II, anche egli prossimo santo, inaugurò il suo pontificato col celebre invito Non abbiate paura. Benedetto XVI, Papa Emerito, medita sull'importanza del suo compito e dà voce al timore che può albergare nel cuore dell'uomo, ma non si può cedere rispondere alla paura, perché la Chiesa stessa, la comunione dei santi, ci accompagna. Papa Francesco, nella festa di San Giuseppe, lega la tenerezza, la paura e la speranza. Educazione e speranza dunque sono insieme con la famiglia, con la scuola, con la parrocchia, comunità nelle quali si incontrano generazioni diverse e si stabiliscono relazioni significative se abbiamo il coraggio di sperare in un mondo diverso. Un cammino dunque che non è improvvisato, quello che ci porta al prossimo 10 di maggio. Sentiamo una voce, uno studente che racconta, appunto, una voce che prendiamo dal sito ufficiale lachiesaperlascuola.it, dove potete trovare molti documenti. La voce è quella di Gioele. Da studenti delle scuole italiane, innanzitutto ci aspettiamo che le nostre scuole siano dei posti, dei luoghi dove è bello stare, intanto dove è sicuro stare, dove si sta bene, dove si sta insieme agli altri, si impara appunto in un luogo che sia accogliente, vitale. La nostra scuola, in particolare la realtà italiana, ha dei ritardi e insomma da studenti non possiamo che auspicare che ci sia un impegno sempre maggiore, insomma, anche per garantire parità a tutti gli studenti italiani, perché la scuola, veramente, lo dice la nostra Costituzione, è un bene di tutti, e quindi anche chi ha meno risorse deve avere questo diritto garantito. E poi da studenti mi permetto di citare Pierpaolo Triani, che al convegno della Pastorale di Genova ci diceva come le relazioni educative, la scuola è il luogo educativo per eccellenza, hanno bisogno di vitalità e di coinvolgimento. Quindi la scuola deve essere un luogo che tocca la vita degli studenti, che non rimane astratta e che li coinvolge, che li mette in gioco, quindi gli dia spazio attraverso gli organi collegiali per esprimersi, dia luogo a modalità di apprendimento, didattiche, che non siano semplicemente, ecco, la lezione frontale, ma che sappia appunto fare in modo che i ragazzi si esprimano. Questo passa per tante cose, passa per una formazione dei docenti, una valorizzazione del ruolo dei docenti, passa soprattutto però per fidarsi e scommettere sui ragazzi, quindi penso che queste siano un po' le cose che noi ci aspettiamo dalla scuola, e sicuramente anche il mondo cattolico ha tanto per potersi impegnare, per poter scommettere sugli uomini di domani. Gioele, uno studente, con la sua esperienza, la sua testimonianza, visto di questo incontro del prossimo 10 maggio, tra poco ancora temi, approfondimenti per questo grande incontro della scuola italiana con Papa Francesco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Io di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò, di domande ne ho quante ne vuoi, e tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai, che io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò mai. Non so se la giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro, così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia, questo mondo non sa. Nessun altro a parte me ha creduto, però ora so che tu vedi quel che vedo io, il tuo mondo è come il mio. chi sono e sarò. Ti potranno dire che non può esistere niente che non si tocca o si coda o si copra, perché chi è deserto non vuole che qualcosa fiorisca in te. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. La Chiesa per la scuola, sabato 10 maggio, ne parliamo anche oggi, ne parleremo ancora di più nei prossimi giorni. È l'evento a cui ci stiamo preparando anche attraverso la nostra rubrica settimanale ormai dall'inizio di settembre. Come sentivamo poco fa dalle parole di Gioele, è un appuntamento importante per gli studenti, lo anche per i professori. Tra poco sentiremo appunto anche un docente, un professore, Roberto Presilla, incaricato di filosofia contemporanea a Roma, aiutante di studio dell'UNESO. In un documento ha ripercorso la strada che porta a questo incontro del 10 maggio. Ricordavamo poco fa l'incontro dell'inizio di maggio 2013, laboratorio appunto La Chiesa per la scuola. Siamo ora in vista di questo incontro evento di sabato 10 con Papa Francesco, un'occasione per rinnovarci nel nostro impegno per la scuola, un rinnovamento che deve essere anzitutto personale. Solo se cambiamo dentro possiamo essere in grado di cambiare davvero, un cambiamento cristiano che incide nella storia perché parte dal di dentro e non da fuori. Saremmo davvero ipocriti se pensassimo che quanto succede al di fuori del nostro cuore possa cambiare davvero le cose. La legge della vita spirituale governa anche il nostro pensiero e la nostra azione. Il cambiamento nella pastorale, nell'opinione pubblica, parte da noi, da ciascuno di noi. Dobbiamo concepire il nostro lavoro come un modo diverso di collaborare all'impresa di Gesù, dato che l'evangelizzazione è da parte nostra l'invito a incontrare Lui. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ci invita fin dalle prime righe a vincere la tristezza individualista con la gioia del Vangelo, come dice il titolo del documento dell'esortazione apostolica. Solo accettando l'incontro con la persona di Gesù e affidandoci alla sua parola diventiamo capaci di guardare con occhi diversi la nostra realtà, di immaginare un futuro diverso. Se vogliamo essere fedeli a questa azione, dobbiamo agire a nostra volta con la stessa creatività. La speranza è aprirsi al futuro, la premessa perché il futuro possa essere generato, non solo costruito o progettato, ma generato con l'aiuto di una grazia che viene dalla parola di Dio. Possiamo generare il futuro solo a partire dalla storia, dalla memoria che ci racconta il passato, dalla tradizione in cui viviamo. È il segreto della difficile arte del genitore, più ampiamente di chi è educatore. Guardare al futuro senza volerne essere padroni, custodire il passato senza esserne schiavi. La famiglia dunque diventa luogo per resistere allo sradicamento del mondo contemporaneo. In famiglia siamo a casa, un luogo dove ragioniamo e manifestiamo affetto. In una famiglia sana, la ragione, il cuore, la giustizia, la tenerezza insieme creano un ambiente adatto per generare e per far crescere. Quando era ancora cardinale, Jorge Mario Bergoglio nel 2001 affiancava la scuola alla famiglia e rivolgeva 3 inviti. Lui tiene sempre questo ritmo ternario, appunto, da gesuita, il ritmo ignaziano. 3 inviti agli educatori: sviluppare vincoli umani di affetto e tenerezza come rimedio allo sradicamento, curare la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, far sorgere alcune certezze di fondo nel mare di ciò che è relativo e frammentario. Inviti ancora validi, perché vale l'analisi che li precede e che individua proprio nello sradicamento, nella discontinuità e nel relativismo i problemi che abbiamo di fronte. Sradicamento significa non avere un luogo che si considera come casa propria, il che si collega al non essere più capaci di scandire il tempo. La nostra esistenza vive in un presente fatuo, all'insegna del perché no, del non avere più regole, nell'illusione che il capriccio corrisponda alla libertà. Ma non è questa la libertà per cui uomini e donne si sono battuti. Lo sradicamento nasce dalla continuità che attraversa la nostra cultura e la nostra vita. E poi c'è lo sfaldamento delle certezze, che ormai non riguarda più le posizioni di parte, ma soprattutto le convinzioni di fondo, convinzioni etiche e politiche. Gli educatori dunque devono combattere in mezzo a queste sfide e non solo in famiglia. Si può applicare tutto questo anche alla scuola, che conosce una profonda crisi di valore. I fondi per la scuola e per la famiglia calano, ci si preoccupa di questioni senza sostanza che riguardano pochi invece di preoccuparsi dei problemi di molti, perché la famiglia e la scuola sono date per scontate, ci sono sempre state così come le conosciamo e pensiamo che così sempre saranno, ma non è così. Non possiamo più permetterci di guardare la scuola come qualcosa secondario o di ciò che rappresenta uno scarto che fa notizia perché magari fa scandalo. Ripetere notizie diverse conferma solo uno scenario fisso nel quale non conta il contenuto delle notizie ma solamente il loro ordine. Papa Francesco dice ancora: viviamo in una società dell'informazione che ci satura indiscriminatamente di dati, tutti allo stesso livello, cioè tutto uguale. Finisce per portarci ad una tremenda superficialità al momento di impostare le questioni morali. Di conseguenza serve un'educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori. Distinguere le cose, le notizie, ad esempio, o i fatti che sono più importanti da quelli che lo sono meno o non lo sono per nulla. Un orizzonte ampio in vista dell'incontro del 10 maggio, ma anche del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, in programma nella primavera del 2015. Un'altra voce che andiamo a proporvi, sempre dal sito lachiesaperlascuola.it, è quella di un docente, il professor Alfio Briguglia. La scuola è una comunità educante. Vive all'interno di una altra comunità, che è la nostra comunità nazionale. Dentro questa comunità svolge un ruolo fondamentale, è quello di far crescere dei ragazzi che poi metteranno le loro risorse, le loro competenze a disposizione della società civile. Ed è incredibile che in tutti questi anni l'importanza della scuola sia venuta meno, sia uscita fuori dalle agende dei nostri politici e non solo. Non sia più una delle preoccupazioni fondamentali della comunità politica, ma anche della nostra comunità ecclesiale. La Chiesa vuole oggi scendere in campo a fianco della scuola perché vuole aiutare la scuola a raggiungere i suoi obiettivi. Che cosa può fare la Chiesa? La Chiesa può, attingendo dalle risorse del Vangelo, richiamare tutti a riscoprire una vocazione a educare che richiede passione. Passione per l'uomo, passione per il sapere, passione per la relazione stessa. Oggi sappiamo che dentro la scuola a volte si soffre, soffrono i ragazzi, soffrono i docenti perché si sentono un po' frustrati nel raggiungimento dei loro obiettivi, soffrono le famiglie. Quello che può fare la Chiesa è aiutare i docenti, le famiglie, i ragazzi a partecipare alla vita della scuola in modo che la scuola sia quello che deve essere, quella comunità educante di cui abbiamo parlato all'inizio. Il Vangelo ha delle risorse enormi da mettere a disposizione che possono liberare queste risorse, queste energie che oggi a volte sono prigioniere della frustrazione e di una specie di rinuncia ad educare. E dopo la voce del professor Briguglia, tra poco ancora un'altra e altri contenuti e ragionamenti in vista del prossimo incontro della scuola italiana con Papa Francesco, 10 maggio. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata con la rubrica Dal mondo della scuola per parlare del prossimo appuntamento con Papa Francesco sabato 10 maggio. Ormai manca davvero poco e come ricordava anche il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, sarà il Papa ad accogliere il mondo della scuola in piazza San Pietro. Non c'è testimone migliore per assicurare a tutti che la Chiesa intende promuovere la scuola per il bene di tutti e a favore di ciascuno. Vogliamo ritessere i fili della scuola, quello delle generazioni, i docenti, i discenti, gli alunni, quello delle agenzie educative, la scuola, la famiglia, la chiesa e quello delle dinamiche sociali, la scuola e il lavoro, senza dimenticare che siamo dentro un processo di grandi trasformazioni che la scuola non può subire, deve rinnovarsi e rimotivarsi. Il percorso ci porterà, come dicevamo, anche successivamente all'incontro del 10 ad un altro appuntamento, quello di Firenze 2015, il nuovo convegno ecclesiale nazionale, c'era stato quello di Verona nel 2006 quando si parlava di pastorale integrata. Oggi la famiglia e la scuola devono essere i luoghi dell'accoglienza in cui i giovani diventano uomini e donne in cui si ricostruisce la nostra tradizione. Sempre Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 15 ricorda che Papa Giovanni Paolo II intendeva la missione, l'annuncio evangelico, allo stesso tempo come compito e come sfida principale della Chiesa. Cosa succederebbe, dice Francesco, se prendessimo realmente sul serio queste parole? Semplicemente riconosceremmo che l'azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. Il nostro lavoro non consiste nel ripeterci che dobbiamo essere missionari, ma nel compiere la missione. Questo è il criterio sul quale misurare ogni opera della Chiesa. La nostra fatica pastorale è al servizio del nostro ufficio della Chiesa? Una domanda che bisogna farsi. E ancora, è solo un pezzo di burocrazia pastorale? Alternative nette, è chiaro però che serve un ripensamento radicale, una rilettura quasi spietata del nostro lavoro che ci mette in grado di guardarlo con altri occhi. La Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo, il cui messaggio non è percepito adeguatamente. Possono essere belle, dice Papa Francesco, però ora non rendono lo stesso servizio. Non dobbiamo avere paura di rivederle. Ci sono poi norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. San Tommaso d'Aquino diceva che i precetti dati da Gesù e dagli apostoli al popolo di Dio sono pochissimi. Citando Sant'Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa successivamente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita ai fedeli e trasformare la nostra religione in schiavitù, quando invece la misericordia divina ha voluto che fosse libera. Un avvertimento fatto molti secoli fa, ma che è molto attuale. Dovrebbe essere, dice Papa Francesco, uno dei criteri da considerare al momento di pensare una riforma della Chiesa e della sua predicazione. Tutto questo vale evidentemente anche per la scuola. L'alleanza educativa tra famiglia e scuola, un patto tra scuole e tra scuole e istituzioni. Ricordare poi che i giovani, tutto questo non sono un bersaglio da centrare, ma una parte attiva nel processo educativo. E allora sentiamo un'altra giovane, un'altra studentessa, si chiama Elena. La mia esperienza scolastica mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha insegnato il valore dello studio e della cultura, perché per formarsi un pensiero critico che ti permetta di capire cosa ti succede nel mondo che ti circonda, c'è bisogno di tanto studio, c'è bisogno di tanto impegno. Poi mi ha insegnato quanto è importante la testimonianza dei professori, avere delle figure adulte di riferimento che sappiano davvero trasmetterti la passione per quello che insegnano, ma che sappiano anche starti accanto come dei compagni di strada. E poi mi ha insegnato l'importanza delle relazioni con i professori, come dicevo prima, ma anche con i miei stessi compagni con cui sono chiamata a confrontarmi ogni giorno, insomma. È un'esperienza molto particolare perché appunto in una classe i compagni non te li scegli, per cui hai necessità di tentare di relazionarti anche con persone che magari sono anche molto distanti dal tuo punto, dalle tue opinioni, dalle cose in cui credi. E quindi è un'esperienza davvero che ti insegna a sapere entrare davvero in relazione con l'altro. 10 maggio, Piazza San Pietro a Roma, sarà un'occasione importante, un momento gioioso per la Chiesa in Italia che incontrerà con Papa Francesco tutta la scuola italiana, e che questa gioia poi si espanda a tutte le comunità in uno stile pastorale che troverà poi una verifica ulteriore l'anno successivo nel 2015 in occasione del convegno ecclesiale di Firenze. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.